Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, inaugurazione evento per City Life Shopping District, il nuovo distretto commerciale di Milano, il più grande d'Italia in area urbana. Noi c'eravamo, ve lo raccontiamo. Parleremo poi di etichette e informazioni al consumatore, non solo in campo alimentare, a che cosa si presta attenzione per un capo di abbigliamento. Scopriremo quali sono le informazioni più ricercate. Dalla prima pista da running a LED al più grande parco agroalimentare del mondo, quando il retail abbatte le frontiere del negozio. Questo il tema del focus sui trend di questa settimana e in chiusura parliamo di consumi e coscienza etica. L'urbanizzazione del mondo è accompagnata da cambiamenti che sono in rapporto con l'organizzazione dei flussi, le migrazioni e gli spostamenti di popolazioni, il confronto tra ricchezza e povertà, ma che più in generale possono essere considerati un'espansione del consumo. In questo senso, aeroporti, centri commerciali, autostrade e supermercati sono dei non luoghi. Infatti, la loro vocazione principale non è territoriale, non è di creare identità individuali, relazioni simboliche e patrimoni comuni, ma piuttosto di facilitare la circolazione, e quindi il consumo, in un mondo di dimensioni planetarie. Così, quasi 10 anni fa, l'antropologo francese Marc Auger lanciava una definizione, quella dei non luoghi, che ha avuto molta fortuna e che da tempo i nuovi centri commerciali, sempre più aperti al dialogo con la città e le sue dinamiche sociali, mettono in discussione. Trova identità in un'area storica della città di Milano, soggetta a un grande progetto di rivitalizzazione City Life Shopping District, 32.000 metri quadrati per 100 negozi, 20 ristoranti, un cinema da 1.200 posti per 7 sale e un poliambulatorio medico. 2 miliardi di euro l'investimento complessivo per l'intera area, che comprende anche la parte residenziale commerciale e degli uffici nei 3 grattacieli firmati dalle Archistari, Sozzacchi, Hadid e Libeskind. Quest'ultimo deve ancora sorgere, più il secondo parco pubblico per estensione di Milano. Bacino d'utenza 700.000 persone, puntiamo a 7 milioni di presenze all'anno, ci ha detto l'amministratore delegato di City Life, Armando Borghi. 3 anni fa qui c'era un buco profondo 12 metri, oggi ci sono 30.000 metri quadrati di superficie commerciale, 100 negozi, 20 ristoranti, 7 sale cinematografiche, un posto straordinariamente bello disegnato da una grandissima artista come Zadid. Un primato italiano in quanto a mall urbano. Assolutamente sì, per dimensione, per varietà di offerta, per possibilità di fruire degli spazi sia all'aperto che all'interno, per poter stare molto bene con la propria famiglia in un posto veramente molto gradevole. La scelta di marca è stata fatta insieme al nostro advisor che è Sona SR, che ci ha aiutato a fare il tenants mix e il merchandising mix, quindi a mettere insieme diversi marchi, diversi negozi. L'idea è quella di fare un posto per tutti, quindi abbiamo una grande segmentazione di prezzo e di offerta sia per il cibo che per i negozi. A quante presenze puntate? Puntiamo a 7 milioni di presenze su base annua, che ci sembra un numero assolutamente ragionevole, e quindi siamo molto confidenti che riusciremo a raggiungere questo numero. Credo sia un polo di aggregazione per la città, credo ci sia molta curiosità da parte dei cittadini di tornare a riappropriarsi di un posto che per troppi anni è stato chiuso. Gassman legge l'etichetta di un capo delicato. Sida. 30%. Cotone 40%. Acrilico 30%. Lavare a 40 gradi. Non strizzare. Non stirare. Capo delicato. Fare asciugare lontano da fonti di calore made in Corea. Looking good and feeling fine. Looking quasi 6 italiani su 10 non acquisterebbero un capo privo di etichetta, lo rivela la ricerca commissionata da Cadica, azienda leader in Italia nella realizzazione di etichette, cartellini e patch per i più importanti brand della moda. Quali sono le informazioni a cui i consumatori prestano più attenzione quando si parla di etichette? Carlo Parisatto. Non è il nostro cliente il consumatore finale, il nostro cliente è colui che vende al consumatore finale, ma per noi era importante capire l'appeal che poteva avere nel consumatore finale. Quindi di fatto la gran parte dei clienti ritiene necessaria l'etichetta all'interno del capo. La cosa altrettanto interessante è che la gran parte di questi consumatori qua che ritiene importante l'etichetta, quindi in questo caso qua un 60%, identifica come l'etichetta la care label cosiddetta, che è l'etichetta che dà le informazioni sia sul materiale che sui modi di lavaggio o sui possibili modi di lavaggio, che per noi chiaramente è relativa, facendo noi brand image è un qualcosa di basico per noi, è di laterale, e per noi rimane molto ma molto più interessante il rimanente 40%, dove si va a capire quale tipo di etichette vengono apprezzate in base a degli aspetti funzionali o in base a degli aspetti esclusivamente estetici. Se fosse un consumatore italiano, perché voi avete indagato anche questo, a dover realizzare un'etichetta, come la sceglierebbe? Il consumatore italiano innanzitutto la sceglierebbe in un modo funzionale, che quindi può essere che non gratta, perché di fatto una delle seconde informazioni importanti è che questa etichetta deve avere una qualità funzionale che non deve essere fastidiosa nel momento in cui la indosso, se no il secondo step sarebbe che viene tagliata con anche un certo tipo di cura. Al pari, un altro aspetto molto molto importante, se fa evidenziare il logo, quindi dà al consumatore un certo tipo di aspetto interessante perché è il capo che io volevo e desideravo del mio brand preferito, se è un logo interno mi dà una garanzia di originalità, se è un logo esterno deve essere del capo che io voglio far vedere, che quindi mi attesta nella società e di conseguenza rispecchia un po' quello che devo essere. E oltre all'etichetta chiaramente c'è anche una parte che non rimane sempre nel capo ma rimane solo in fase di acquisto, che è il cartellino o tag, lo troviamo appeso nel capo dove ci dà delle informazioni di taglia, di servizio o di prezzo che possa essere, e in quel caso là viene poi tolto. Vediamo allora nel dettaglio quali tipologie di consumatori, in relazione a quali loro approcci agli acquisti e alle abitudini di vita, prestano attenzione all'etichetta e al logo. Certo, diciamo così, ho riassunto dall'indagine chiaramente un'ambivalenza di comportamenti, no? Un understatement individualista e un'esibizione e socializzazione, che dobbiamo vederlo in fase contrapposta. Dalla parte dell'understatement, quindi un modo che può essere femminile o maschile di approccio, se è femminile chiaramente possiamo definirlo come un lusso maturo e quindi veniamo ad un logo quasi invisibile, cioè è importante il brand ma il brand non deve essere esagerato, no? Mentre invece per quanto riguarda l'aspetto maschile deve riguardare solamente una rifinitura interna ed è importante che sia semplicemente una griff all'interno del capo. Per quanto riguarda invece l'esibizione, che è il contrapposto, quindi di socializzazione, di comunicazione di ciò che io sono, abbiamo individuato dei loghi pacchiani e quindi è un'ostentazione in questo caso qua che si vuol fare con il logo, e quindi alla fine lo individuiamo un po' nella caratteristica degli anni 80 o dei nuovi ricchi, no? Che devono comunque ostentare il logo. Al pari, per quanto riguarda invece la parte maschile, che abbiamo appena visto quella femminile, il logo visibile è stato individuato come una cultura di gruppo, un modo di essere di giovani e adolescenti. Siete pronti a correre con il vostro avatar di fianco? Tra pochissimo vi portiamo a Manila, ma non solo, per le nuove sperimentazioni nel retail, non solo negozi. Subito dopo la pausa, restate con noi. Essere e avere. Emporio Querciola Vagabonda. Oh, è sauna! saldi grande svendita, costumi a metà prezzo, zoccoli e protezione solare di mia invenzione, già? Yeah? Focus sui trend. Continuiamo a parlare di retail anche in questa seconda parte. La sfida con l'e-commerce ha spinto i grandi brand a puntare in alto con spazi innovativi in cui il dialogo con il consumatore si fa molto più ampio, non riguarda più solo la vendita. Lo raccontano i casi che ha selezionato per noi Luisa Schiero di Future Concept Lab. Ciao Luisa, ben trovata. Grazie, ciao Maria Luisa e buonasera ai nostri ascoltatori. Il primo caso che mi hai anticipato rende subito evidente questa tendenza. Parliamo di un brand, Nike, e di una tribù di riferimento, diciamo così, quella dei runners, per uno spazio che occupa un intero isolato. Di cosa si tratta? Esattamente, davvero, se le marche, i retailer vogliono lasciare un segno tangibile, quindi non solo nella sfera dell'e-commerce o comunque dell'online, Nike decisamente ha lavorato su questo. Siamo a Manila, diciamo nello spazio di un intero quartiere era stato allestito, è un pop-up naturalmente, ha avuto una durata temporanea, una pista da running di 200 metri che poteva essere utilizzata contemporaneamente da 30 persone soltanto, che aveva però una particolarità e per questo davvero invito gli ascoltatori ad andare nel sito a visionare le immagini che sono veramente impattanti, perché aveva questa particolarità di innanzitutto di avere una forma come l'impronta della scarpa Lunar Epic, per cui un infinito, ma soprattutto era completamente ricoperta all'esterno da LED lungo i quali correva il nostro avatar. Si veniva quindi monitorati per un giro sulla nostra velocità rispetto a un giro di pista e poi si veniva spronati dall'avatar col nostro nome che correva avanti a noi per non farci perdere la concentrazione e anche spingerci a correre sempre più veloci. Le abbiamo postate sulla nostra pagina Facebook, io navigavo in rete, ho trovato un blog per runners che diceva vale solo questo il biglietto per Manila, insomma quindi un'operazione veramente impattante come dicevi tu. Con il prossimo caso parliamo ancora di scarpe, Luisa, ma di tutt'altro genere. Esattamente, infatti anche in questo caso si parte Birkenstock da un elemento iconografico, il contenitore, la scatola. Infatti Birkenstock ha creato delle scatole itineranti, le Birkenstock Box, una sorta di container che seguivano alcuni eventi particolari in alcune città nel mondo, a partire da Berlino, e quindi però si collegavano direttamente ad alcuni concept store dove le scarpe Birkenstock, le ciabattine diciamo con la suola in sughero, vengono venduti, per cui parliamo di Andreas Murkudis, 10 Corso Como a Milano, Barneys. Questi contenitori viaggianti raccontavano la partnership tra la marca, in questo caso, e il retailer, che aveva la possibilità di personalizzare completamente l'interno a seconda proprio della propria visione e non solo proporre una ciabattina in limited edition che parlasse della propria visione, di nuovo in questo caso estetica, della marca. Veniamo in Italia con uno spazio di cui si è parlato molto, ha fatto molto notizia, come si dice in gergo, l'inaugurazione di qualche settimana fa ha a che fare con il cibo, il cuore della produzione agroalimentare italiana, parliamo di FICO a Bologna. Sì, effettivamente, parlando come stiamo facendo in questa tendenza di relazione con il territorio, di impronta, no? Di lasciare un segno, insomma, non potevamo non raccontare, comunque fare anche un accenno a questo spazio che ho avuto il piacere di vedere in anteprima prima dell'apertura del 15 novembre alla stampa, una sorta di tour. Diciamo che FICO, Fabbrica Italiana Contadina, all'interno, diciamo, come sorta di evoluzione Italy World, realizzato da Farinetti, è davvero impressionante rispetto anche proprio al progetto, all'idea, cioè quello di proporre la filiera produttiva che raccontasse la biodiversità italiana agroalimentare, dicevo la filiera produttiva dall'inizio alla fine. Faccio un esempio delle 40 fabbriche presenti, per esempio Baladin, produttore di birra, questo spazio parte dalla produzione, quindi dalla materia prima, fino ad arrivare alla visione, si può visionare il processo e poi la degustazione. Questo è interessante, questo, il nostro questo punto di vista, proprio l'idea che sia possibile in uno spazio avere accesso non soltanto alla conoscenza della biodiversità italiana da questo punto di vista, una selezione naturalmente, ma anche proprio poter avere quasi un aspetto tra virgolette formativo e informativo rispetto a quello che è il processo. In questo contesto, Luisa, i retailer, quindi la grande distribuzione, diventa consapevole del proprio ruolo anche sociale. Sì, infatti sono gli ultimi due casi che vi racconto che hanno proprio questo taglio e sono collegati tra loro perché parliamo in questo caso di un unico retailer, della grande distribuzione che è Carrefour, che da tempo sta mettendo in atto alcuni proposte che poi si traducono appunto in azioni vere e proprie concrete per i consumatori che vanno al di là di quello che è un mero scambio commerciale, perché Carrefour si interroga in qualche modo da tempo, come anche altri retailer naturalmente, rispetto all'idea di ciò che è prossimità, no? Nei confronti delle persone, infatti sono stati tra i primi anche a ritornare a ricreare quei negozi, diciamo il negozio di prossimità, che insomma sono praticamente quasi scomparsi da molte grandi città con dei format, ma in più c'è proprio un'idea di prossimità relazionale, proprio quasi di responsabilità sociale, come dicevi, con estate a Casa Market quest'estate, una delle estate tra l'altro più calde a memoria umana, gli over sessantenni avevano la possibilità di entrare in posti refrigerati, quindi per poter conversare, giocare con tutta una serie di oggetti insomma messi a disposizione, proporre proprie fotografie, quindi avere uno spazio di socializzazione. Ed è un percorso iniziato precedentemente, perché il tram, se vi ricordate, stiamo parlando di Natale dell'anno scorso, il tram Vivi di Gusto che girava per Milano aveva proprio questo tipo di obiettivo, quello di fare degustare e acquistare prodotti della marca premium di Carrefour per poi donare tutto il ricavato all'acquisto di culle per ospedale Buzzi, quindi proprio all'interno di questa logica anche di responsabilità. Luisa Schiero, grazie, alla prossima. Alla prossima. Il consumautore. Sani? Mi hanno detto che lei aiuta la gente ad ottenere quello che vuole. Diciamo che offro delle possibilità. Voglio essere più bella. Io voglio che mio marito torni a casa. Una notte intera con lei. Io le darò un compito e se lo porterà a termine avrà quello che ha chiesto. Mi dica cosa devo fare. Più una cosa del genere non la farò mai. Ma perché chiedi cose così orrende tu? Perché c'è chi è disposto a farle. Sei un mostro. Diciamo che ho da mangiare ai mostri. Parte da The Place, il nuovo film corale di Paolo Genovese, la riflessione finale di questa sera in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Ben trovato Francesco, perché questa scelta? Buonasera Maria Luisa, perché intanto, partendo come spesso facciamo dal titolo, The Place, assistendo al film capisci che è il luogo della coscienza, quindi senza svelare la trama, è un gioco di riconoscimenti reciproci in uno stesso luogo, ma soprattutto ci fa capire quanto più andremo avanti in una società tecnologica, tanto più è e sarà importante la nostra coscienza, perché la capacità che abbiamo di riflessione è ciò che le macchine non potranno mai avere. Quindi è un gioco incrocio di storie dove questo elemento della coscienza prevale, e questo è molto importante anche per i consumatori. Più andiamo avanti e più i nostri modelli di consumo sono e saranno influenzati non solo dalla qualità dei prodotti, ma dalle azioni messe in campo per realizzarli. Quindi ognuno di noi è molto più consapevole da un lato, ma pretende anche molto di più dalle brand, dalle aziende, che dovranno fare conti con la loro di coscienza, che è una cosa a cui il management non è così abituato. Quindi etica e trasparenza, sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti dell'impresa come fattori competitivi sul mercato. Assolutamente, e non più solo così direttamente legata anche ai processi dei prodotti e processi produttivi, ma molto anche alla gestione, ad esempio, delle risorse umane. Di qualche giorno fa il caso di Amazon, quindi senza prendere posizione rispetto, perché non è questo che ci compete, ma non c'è dubbio che oggi la reputazione di Amazon si gioca anche su quali sono le condizioni di lavoro. Ricevere un pacco più velocemente viene apprezzato dai consumatori, ma se poi questo va a scapito della qualità di chi te lo consegna, le cose cambiano. Così come per tutto il mondo dell'offerta digitale on demand, appunto, il problema giuslavoristico sta diventando un problema a cui va posto assolutamente rimedio, va normato, perché i consumatori, Francesco, ce lo dicono tante ricerche, sono disposti a pagare di più per un prodotto che rispetti determinate condizioni. Sì, e questo fa parte della nostra nuova coscienza, no? Di consumatori, perché in realtà questa dimensione di reciprocità in cui tutti noi poi ci troviamo coinvolti, no? Perché siamo tutti consumatori, ma siamo anche padri e madri di famiglia, lavoriamo, abbiamo rapporti con i nostri capi sul luogo di lavoro, quindi direi che è una riflessione a 360 gradi che oggi il management deve fare, e non più solo nell'ambito HR, delle risorse umane, come si faceva di solito, ma un po' partendo dall'integrità di ciascuno di noi, no? Anche lavorare per un'azienda che prima era magari un elemento di status, azienda grande, oggi implica il porsi il problema se quell'azienda è corretta oppure no. Grazie a Francesco Morace e grazie in regia a Paolo Corleoni. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.